Sito nel chiostro del convento di Santa Chiara, di impianto quattrocentesco, l'orto botanico del tessile è stato ideato da Clara Bertolini con Manuel Ramello. La Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile lo ha realizzato grazie al sostegno del Comune di Chieri e della Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del progetto Un cantiere didattico per Chieri, città del tessile, selezionato fra i vincitori del bando Luoghi della Cultura 2017-2019. Questo giardino particolare, dotato di cassoni lignei impermeabilizzati e impianto di irrigazione ad hoc, richiede cura costante, ricerca e valorizzazione. Attività promosse dalla Fondazione con l'impegno di volontari, il contributo scientifico di Giulia Perin, artista in residenza che conduce anche visite esperienziali guidate, nonché risorse economiche del Comune di Chieri, maggior sostenitore, e della Regione Piemonte. Arricchito e rinnovato nel 2022, prevedendo anche soluzioni per l'accessibilità a un pubblico con abilità diverse, questo giardino è uno spazio in cui il legame fra tessile e natura si riscopre, così come il valore di un fare creativo e sostenibile. L'orto botanico del tessile si articola idealmente in due sezioni. La prima sezione include piante le cui fibre sono impiegate per la filatura e la tessitura, in particolare il lino, il cotone, il banano e la ginestra odorosa, oltre alla canapa comune e alla datisca cannabina, dalla quale si ricava un colorante giallo. Dall'ortica, anch'essa filabile, si ottengono invece toni dal verde al blu, a seconda del mordente impiegato nel procedimento di tintura naturale. Per l'ecoprinting si possono impiegare foglie di eucalipto, dalle cui fibre cellulosiche, così come avviene per il bambù, si ottengono filati di nuova generazione, Tencel e Liocel, realizzati con tecnologia ecosostenibile premiata dalla Unione Europea con l'Environmental Award 2000. Altre piante legate al tessile sono ad esempio il gelso, delle cui foglie si nutrono i bachi da seta, il cardo dei lanaioli, che ne impiegavano il capolino spinoso per cardare fibre e panni, e il cosiddetto albero della seta, una curiosità botanica. Vi sono poi specie come la lavanda e la salvia, da sempre usate per profumare i tessuti o proteggerli da insetti infestanti. La seconda sezione, più ampia, è dedicata alle piante tintorie, a cominciare da quelle usate per ottenere i toni blu e coltivate per secoli nel territorio chierese, ovvero il gualdo, la persicaria, già poligono tintorio, il sambuco e l'indigo, da cui si ricava anche il verde. Questo colore si ottiene pure dall'edera, dalla ruta e da alcune piante edibili, incluso il cardo di Chieri. Per i gialli primeggiano le specie di impiego tradizionale, in particolare la camomilla dei tintori, lo zafferano, la reseda luteola, la calendula, il cartamo, il tanaceto, l'artemisio, il crespino, ma anche la curcuma, la margherita africana, la coreopsis, il girasole e altre ancora. Tonalità arancio si possono ottenere dal tagete, dal rabarbaro e dall'enné. Per i toni dal rosato al violaceo troviamo la robbia domestica e selvatica, l'alchemilla, il rovo, l'iperico, la fitolacca americana e l'alcanna tinctoria. Quest'ultima un tempo diffusa nel Mediterraneo, ma oggi assai rara, e qui presente anche nella specie orientale. Fra le piante da cui si ottengono toni di grigio e il nero, storicamente ricavato dalle noci di galla, troviamo l'iris giallo. Dal noce si ottiene il marrone e tannino da impiegare come mordente, ricavabile anche dalla buccia del melograno e dalla corteccia di altri alberi. Primo nel suo genere in Piemonte, l'orto botanico del tessile è inteso come hortus di bellezza, che integri il patrimonio librario della biblioteca specialistica della Fondazione e si innesti sul percorso espositivo del Museo del Tessile di Chieri. La Fondazione, a cui queste risorse fanno capo, ha ricevuto il premio Luogo della Cultura 2022 dalla Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica ICTC ed è iscritta nell'albo degli enti culturali di rilevanza per Regione Piemonte 2021-2023.